Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. La nostra borsa della spesa oggi è piena di prodotti tipici pasquali, dolci soprattutto. Analizzeremo insieme le etichette degli ingredienti e dei prezzi per capire come non farci fregare. Focus sui trend dedicato invece ai consumi good enough, buoni quanto basta. Dagli hotel ai prodotti tecnologici, quando sapersi accontentare fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Nuovi rincari sul carrello della spesa settimanale. Secondo l'osservatorio prezzi di Adiconsum, negli ultimi 6 mesi per una famiglia di 4 persone è aumentato di oltre il 3%, superando i 143 euro. Verdure e ortaggi guidano gli incrementi, seguono le carni e i prodotti ittici. Lo storico brand di abbigliamento inglese Aqua Scutum è in vendita. L'azienda, fondata nel 1851, nel 2011 ha registrato un calo di vendite di 10 milioni di sterline. Un laboratorio e un vero e proprio atelier di sartoria per integrare attraverso il lavoro le donne rom e sinti in situazione di disagio sociale. È la sfida economica e sociale della Caritas Diocesana Vicentina, che ha attivato un corso di qualificazione professionale di sartoria per nomadi. Nonostante il generale crollo dei consumi, le vendite porta a porta resistono. Nel 2011 il fatturato delle imprese del settore aderenti a Dave Disco è stato di 895 milioni di euro, in crescita dello 0,3% rispetto al 2010, supera il 7% l'aumento del tasso occupazionale. Resterà aperta fino al 25 giugno a Venezia la prima mostra dedicata all'icona della moda Diana Vreeland, l'ex direttore di Vogue dallo stile irriverente che tra gli anni 40 e 70 ha dettato le leggi del gusto mondiale. In esposizione, abiti da collezioni private e archivi aziendali che hanno segnato la moda del Novecento. Frullati a base di frutta fresca e insalate, accompagnate da fette di mela. Svolta salutista per Burger King, che con un piano da 750 milioni di dollari punta ad attrarre le famiglie e aumentare le vendite. Obiettivo dell'azienda? Recuperare posizioni dopo il sorpasso di Wendy's, che ha raggiunto il secondo gradino del podio dei fast food dietro a McDonald's in Nord America. La borsa della spesa. Ti sei mai accorto di qualcuno che sia entrato in quella fabbrica? Ci sarà pure qualcuno che ci lavora. L'unica cosa che esce da quel posto sono i dolci. E io darei qualunque cosa per poter entrare in quella fabbrica straordinaria. Io sono Augustus Glo e mi piace il cioccolato. Spero che verrà a trovarci quando avremo aperto tra una settimana. Sì, aprire una pasticceria durante il sacro digiuno quaresimale non immagino un momento migliore. Oh, ma io non voglio mettere una pasticceria. Allora cosa hai intenzione? È una sorpresa. Una punta di peperoncino per contrastare la dolcezza. Piccante, avventuroso. Kamal Vaswaib fa il manovale. In Egitto invece era pasticcere. Se vuole fare il suo lavoro anche da noi, deve imparare il cioccolato. Con un omaggio cinematografico al cioccolato apriamo la shopping bag di oggi che, gioco forza, lo anticipavamo prima, non può che essere dedicata ai prodotti tipici pasquali, uova di cioccolato in primis. I dati che ci sono arrivati in questi giorni rendono il boccone un po' meno dolce, parlano tutti di un aumento dei prezzi che varia dal 2% della colomba al 7% delle uova, secondo la Confederazione Italiana Agricoltori. Casper, il Comitato contro le speculazioni e per il risparmio, sostiene addirittura che i rincari abbiano superato il 21% per le uova, l'11% per le colombe. Per il pranzo di Pasqua, dicono le associazioni dei consumatori, una famiglia media di 4 persone quest'anno ha sborsato quasi 16 euro in più rispetto all'anno scorso, ossia il 10% in più a causa dei rincari dei prezzi. Visti i prezzi, stiamo almeno attenti alla qualità, ricordando che ci sono caratteristiche precise per questi dolci tipici, come la percentuale di mandorle per la colomba o quella di cioccolato per le uova. Etichetta in mano, sentiamo allora i consigli di Silvia Biasotto, responsabile del Dipartimento di Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino. Partiamo dalla colomba, insomma, dolce tipico delle festività pasquali. Esiste una vera e propria norma, un decreto del 2005 che prevede quali siano gli ingredienti obbligatori. In particolare, che cosa andare a guardare negli ingredienti per poter valutare la qualità di un prodotto? Essenzialmente la presenza di uova fresche, quindi le uova di categoria A. Non dobbiamo trovare l'ovo prodotto, che si tratta di un prodotto liofilizzato. E poi il burro in una percentuale minima del 16%, e non, attenzione, la margarina o peggio ancora gli oli vegetali. Importante poi che ci siano le scorze di agrumi canditi, e la decorazione deve essere composta da una granella di zucchero, una percentuale di mandorle di almeno il 2%. Quindi questi gli elementi principali per comprare una colomba di qualità, sia che sia industriale che artigianale nei laboratori, perché il messaggio che vorrei dire è che il procedimento e gli ingredienti sono gli stessi, a prescindere anche dal prezzo, sia per l'industriale che per l'artigianale. Se la compriamo prezzo, ad esempio, una pasticceria, quindi come un prodotto sfuso, l'elenco degli ingredienti deve essere presente sul bancone di esposizione del prodotto. Per quanto riguarda invece le uova di Pasqua? Sì, le uova di Pasqua sono fatte appunto di cioccolato, quindi per scegliere dobbiamo andare a guardare la qualità del cioccolato. Importante che ci sia una presenza di sostanza secca di cacao di almeno il 35% e di burro del 18%. Evitiamo magari i prodotti con la presenza di grassi vegetali, anche se ricordo che fino al 5% sono consentiti. Se poi vogliamo comprare, diciamo, un prodotto di un livello superiore, possiamo andare a scegliere offerte con le diciture fine, finissime ed extra, che ci garantiscono una presenza di sostanza secca di cacao maggiore, che può arrivare, insomma, a superare anche il 43%, ma anche di burro di cacao. In questi casi sarà molto difficile trovare dei grassi vegetali, e soprattutto occhio alle sorprese, devono essere con la conformità CE, ma soprattutto guardiamo che siano adatte all'età dei nostri figli. Sui dolci tipici pasquali pesano i rincari di zucchero e cacao, ci dice Domenico Mastrogiovanni del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Parliamo di un aumento rispetto a quelli che sono gli alimenti tipici del periodo pasquale, quindi cioccolato da un lato, sotto forma di uova, che risente in maniera abbastanza preponderante l'aumento delle materie prime, tipo il cacao aumentato di 6 punti, ma anche l'aumento dell'IVA e l'aumento dei carburanti, sia come energie per la produzione che poi per la distribuzione. Meno accentuato è l'aumento rispetto a un altro prodotto tipico che sono le colombe. Però quello che ci preoccupa in questa fase è questa tendenza dell'italiano, un po' per paura di questa crisi, a ridurre quella che è la possibilità della breve vacanza pasquale, e questo mette in crisi sia il settore turistico che agrituristico, ma anche quello della ristorazione, che consuma i prodotti agricoli in questo periodo, in particolare quelli tipici. Che cosa pesa su questi rincari? Ci sono anche fenomeni speculativi da tenere sotto controllo? Fenomeni speculativi a questo momento non ci vengono segnalati, però c'è un dato di fatto, che un prodotto come il cacao, che viene trasformato in cioccolato, normalmente viene trovato ad un prezzo che va, se calcoliamo il peso di un uovo, da 200-300 grammi, dalle 5 alle 12 euro, se non è di marca, di più 30-60 euro se andiamo sul prodotto di marca. Questo non dovrebbe, se non aumenti dovuto all'incremento dei costi di produzione, trasformarsi in un incremento o in un sfruttamento del periodo per un aumento indiscriminato dei prezzi, perché la crisi colpisce anche quelle che sono le produzioni e le festività di questo periodo. Ricordiamo qual è il range dei prezzi sia per quanto riguarda le uova che le colombe? Allora, il prezzo medio di un uovo o di una colomba che non è, diciamo, di marca, che è un prodotto che va sulla grande distribuzione senza un particolare appeal, è dai 5 ai 12 euro se parliamo di un cioccolato, e da 2 ai 5 euro se parliamo di una colomba. Se invece andiamo su quelle che sono le produzioni che si fregiano di un marchio o di una denominazione, qui si va, prendendo a riferimento un uovo di 250-300 grammi, dai 30 ai 60 euro per poterlo acquistare, sulle colombe si sale dai 15 fino ai 30 euro in funzione di quella che è la capacità di farcire il prodotto che viene messo anche sul mercato. Essere e avere. Lo sapete che siamo entrati nella Good Enough Revolution, di nuovo in studio con Essere Avere, il focus sui trend della settimana è dedicato appunto ai consumi good enough, buoni quanto basta. A guidarci nella riflessione, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Economia dell'abbastanza, società della sufficienza, good enough society sono le definizioni che troviamo in una serie di saggi a firma di economisti, sociologi, esperti di marketing, testi che si rifanno tutti a questa tendenza, una filosofia che mette in discussione la logica della crescita infinita e dell'innovazione consumistica fine a se stessa, concetti tra l'altro che la crisi ha rivelato essere ormai insostenibili. Il mondo dei consumi si è adeguato proponendo prodotti e servizi dal buon rapporto qualità-prezzo, che preferiscono la semplicità alle prestazioni, l'accessibilità all'eccellenza. Patrizia. L'avverbio abbastanza, un po' come l'aggettivo liquido baumiano, sta diventando un vero meme, cioè un concetto chiave forte, una parola paradigma capace di contenere già tanto presente e molto futuro insieme. Sulla cultura e sulla società dell'abbastanza, del buono quanto basta, è uscito un saggio nel 2010, la Good Enough Society, Sopravvivere in un mondo quasi ottimo, di Paolo Magrassi, nel 2011 The Economics of Enough, l'economia dell'abbastanza dell'americano. Diane Coyle, di recente uscita italiano, Basta il giusto, quanto e quando, di Andrea Segre, già autore di Lezioni di ecostile, libro sulla società della sufficienza definito il manifesto di un nuovo civismo ecologico, etico, economico, e spiega i come e i perché di questo nuovo modello. Dunque, parola chiave abbastanza, che si inserisce in un contesto di mercato in cui il consumatore continua a subire una vertigine da iperofferta, continua ad avere un'alta propensione al consumo pur con i limiti di un potere di spesa evidentemente basso, e good enough diventa l'etichetta di servizi e prodotti abbastanza buoni, cioè innovativi quanto basta e mirati ai desideri di base. Prodotti e servizi che sono soluzioni imperfette, per così dire, quasi ottime, ma con quella qualità sufficiente, adeguata per circostanze e bisogni specifici. Quindi dai device tecnologici ai servizi, ai prodotti commodity, a quelli anche di lusso, il ritorno di questi elementi basilari della soddisfazione va sottolineato che non è privativo ma è funzionale, una sorta di rinuncia consapevole all'inutile di più, e interi mercati sono stati trasformati proprio da prodotti che hanno scambiato la fidelizzazione con prezzi accessibili, flessibilità e convenienza, dai trasporti aerei alle automobili, ai viaggi, alla moda, all'arredamento, per citare solo alcuni grandi brand: Ryanair, Dacia, iDreams, H&M, IKEA. Il concetto di valore non coincide più necessariamente con il concetto di prezzo. È in qualche modo il low cost intelligente, che non è semplicemente il prezzo più basso, ma è il prezzo giusto rispetto alla qualità di prodotti o servizi che mi servono, dal giusto contenuto, quindi con la giusta dose anche performativa che stabilisco in base a quello che mi serve. Oggetto irriducibile simbolico del good enough, una sedia non sedia di vitra, si chiama chairless, appunto senza sedia, è un oggetto minimo a cui non si può sottrarre altro pena la sua inesistenza. Che cos'è? È una cinghia elastica che ci avvolge schiena e ginocchia piegate per poterci sedere a terra con un sostegno, quindi con uno schienale. È un approccio un po' radicale al good enough, quello di questo oggetto, ma in effetti per sedersi questa sedia non sedia è assolutamente sufficiente. Stesso concetto per i food sticker di Nike, la scarpa a suola, cioè gli adesivi che si incollano alla pianta del piede, e per camminare non serve altro, così come la bicicletta per muoversi in città è più che sufficiente, e servizi come quelli dei cicloponi, per esempio a Milano ci sono gli Urban Bike Messenger, rientrano in questa filosofia minima dell'abbastanza, che molto spesso spesso si coniuga con consumo critico e stili di vita sostenibili. E c'è un film che anche nel titolo richiama questa tendenza, e Basta che funzioni di Woody Allen, questo il monologo finale. Ecco perché non lo dirò mai abbastanza. Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni. E non vi illudete, non dipende per niente dal vostro ingegno umano. Più di quanto non vogliate accettare è la fortuna a governarvi. Quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate, sennò vi viene un attacco di panico. Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio. Patrizia, il concetto di good enough si applica molto bene alla tecnologia, ai prodotti tecnologici. Sì, si parla di low tech in contrapposizione all'high tech, cioè la tecnologia che è disponibile, innovativa quanto basta, ma con barriere d'accesso e di usabilità e di prezzo meno selettive, quindi semplici e a basso costo. In un articolo intitolato The Good Enough Revolution, When Cheap and Simple is Just Fine, quando semplicità e basso costo vanno bene, era un articolo di Robert Capps comparso su Wired già nel 2009, il good enough legato al mondo delle tecnologie viene definito anche effetto MP3. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci accontentiamo di tecnologie alla nostra portata, abbastanza performanti, pensiamo in uno scenario comunque tecnologico ipertelico, cioè che va molto oltre le nostre capacità d'uso, e questo perché abbiamo ridefinito gli standard fruitivi e i parametri di valutazione. L'effetto MP3 significa che valutiamo un ascolto musicale in base non certo all'alta definizione, ma al basso costo, alla velocità, alla semplicità d'uso e soprattutto al fatto di poter ascoltare musica con dispositivi portatili, quindi device con qualche limite qualitativo ma perfetti per l'esigenza di fare tutto questo in mobilità. Dunque gli standard qualitativi si sono ridefiniti in base ai nuovi contesti d'uso. Leggiamo notizie su blog, guardiamo video in streaming in definizione accettabile ma non certo altissima, guardiamo film sullo schermo del computer, usiamo i piccoli schermi ridotti degli smartphone per trovare informazioni, consultare mappe, inviare posta, postare su Facebook, twittare, eccetera. Pensiamo anche a YouTube o a Vimeo, grandissimi archivi digitali di video generati dagli utenti della rete che hanno una definizione bassa, ma sono disponibili, gratuiti, accessibili facilmente sempre. Lo stesso vale per Skype e le videoconferenze, che sono una soluzione quasi ottima rispetto a una riunione tradizionale, ma si abbattono i costi di travel, di living, e per alcuni obiettivi comunicativi risultano canali sufficientemente efficaci. Il good enough ha anche dei risvolti socioculturali ed esistenziali, non solo economici, legati a prodotti e servizi. È uscito Good Enough Mother, la madre abbastanza brava, il libro di René Siler, che ha anche un blog, goodenoughmother.com. L'autrice in questo libro racconta di come abbia imparato a rinunciare all'idea di perfezione in favore del pragmatismo, guadagnando evidentemente in autostima e senso di adeguatezza. E ancora, altro testo, Good Enough is the New Perfect, come trovare la felicità e il successo nel mondo della maternità. Di nuovo, altre due autrici americane su successo, felicità e maternità legati al concetto di abbastanza. Scegliere le soluzioni abbastanza buone significa, in sintesi, sì, preferire l'essenza al fronzolo inessenziale, ma non significa per contro mediocrità o disattenzione, disinteresse per l'estetica, per la coerenza formale, per la bellezza soprattutto degli oggetti. Un bel esempio è il progetto Furniture Factory, la fabbrica dei mobili del designer danese Lucas Maassen, che ha fatto dipingere una linea di mobili in legno di pino fatti a mano da lui, dai tre figli, uno di 9 e gli altri due di 7. Ligio alle leggi danesi sull'impiego del lavoro minorile, li ha fatti lavorare fino a 3 ore alla settimana per un paio di settimane, vincolando il risultato finale dei mobili alle competenze e al tempo disponibile dei ragazzi. Il risultato sono pezzi unici, definiti meravigliosamente imperfetti perché incompleti. Un good enough concettuale, in questo caso volutamente dimostrativo di una qualità basica su cui è stata riversata questa dose di sperimentazione artistica inadeguata quanto basta. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a Playa del Carmen, Messico, sui consumi Good Enough? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, al centro di questa cittadina turistica si trova un albergo dal nome che in sé è già una dichiarazione di intenti, l'Hotel Basico. Tanto per cominciare, all'ingresso c'è un bar che funge pure da reception. Nelle camere le pareti sono di cemento grezzo, non finito, nessuna partizione se non quelle strettamente necessarie, lavandino e vasca sono a vista, cavi e tubi sono volutamente esposti e dove serve fungono da portasciugamani. Al centro campeggia un grande letto che altro non è che un ripiano di legno sospeso su trespoli che sembrano essere stati approntati al momento. Gli oggetti pochi e solo quelli utili in un posto di mare, un pallone da calcio, un paio di pinne, un salvagente appeso al muro e una polaroid per scattare le foto ricordo. Sul tetto due vecchie cisterne recuperate e dipinte di rosso fanno da piscine, ma anche i lettini e tutto l'arredo sono stati realizzati con materiali di risulta, per esplorare il potenziale estetico che può nascere al di fuori della produzione in serie, ma anche come metafora delle contraddizioni di questa nazione. Anche il grado di manutenzione è minimo, si fa solo quella indispensabile, tant'è che i muri e l'insegna conservano un aspetto trasandato quanto basta a dichiarare lo scorrere del tempo. Grazie Alessia. Patrizia, costruire una società, nuovi stili di vita fondati sulla coscienza del limite, scrive Andrea Segre, lo citavamo in apertura, mi sembra una sintesi molto efficace. Messa così, la Good Enough Society sarà una delle sfide del futuro, concordi? Sì, Good Enough non è una ricetta, ma appunto un nuovo approccio, un nuovo paradigma dei consumi, ma che riguarda anche la vita, la società. Aiuta a riconoscere le contraddizioni della logica della crescita economica, perlomeno secondo il modello di sviluppo sin qui praticato. Tradotto nel quotidiano vuol dire ritarare i consumi sugli effettivi bisogni, tenendo a mente appunto la scarsità delle risorse. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima, come sempre dopo il GR delle 16. Un saluto e di nuovo buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali.